la notte di Natale, il buon augurio del presepe. Meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre. Grazie, Maria. Omelia 31 dicembre 2017. Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio. Questa celebrazione vespertina respira l'atmosfera della pienezza del tempo. Non perché siamo all'ultima sera dell'anno solare, tutt'altro, ma perché la fede ci fa contemplare e sentire che Gesù Cristo, Verbo fatto carne, ha dato pienezza al tempo, del mondo e alla storia umana. Nato da donna, la prima a sperimentare questo senso della pienezza donata dalla presenza di Gesù è stata proprio la donna da cui egli è nato, la madre del Figlio incarnato, madre di Dio. Attraverso di lei, e per così dire, è sgorgata la pienezza del tempo, attraverso il suo cuore umile e pieno di fede, attraverso la sua carne tutta impregnata di Spirito Santo. Da lei la Chiesa ha ereditato e continuamente eredita questa percezione interiore della pienezza, che alimenta un senso di gratitudine come unica risposta umana degna del dono immenso di Dio. Una gratitudine struggente che, partendo dalla contemplazione di quel bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia, si estende a tutto e a tutti, al mondo intero. È un grazie che riflette la grazia. Non viene da noi, ma da Lui. Non viene dall'io, ma da Dio, e coinvolge l'io e noi. In questa atmosfera creata dallo Spirito Santo, noi eleviamo a Dio il rendimento di grazie per l'anno che volge al termine, riconoscendo che tutto il bene è dono suo. La benedizione di Maria. Angelus, 1 gennaio 2019. Oggi, ottavo giorno dopo il Natale, celebriamo la Santa Madre di Dio. Come i pastori di Betlemme, rimaniamo con lo sguardo fisso su di lei e sul bambino che tiene tra le braccia. E in questo modo, mostrandoci Gesù, il Salvatore del mondo, lei, la Madre, ci benedice. Oggi la Madonna ci benedice tutti, tutti. Benedice il cammino di ogni uomo e ogni donna in quest'anno che si inizia e che sarà buono proprio nella misura in cui ciascuno avrà colto la bontà di Dio che Gesù è venuto a portare nel mondo. In effetti, è la benedizione di Dio che dà sostanza a tutti gli auguri che vengono scambiati in questi giorni. E oggi la liturgia riporta l'antichissima benedizione con cui i sacerdoti israeliti benedicevano il popolo. Sentiamo bene, recita così: ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Questa è la benedizione antichissima. Giuseppe, presenza silenziosa. Angelus, 21 dicembre 2014. Nel mistero del Natale, accanto a Maria c'è la silenziosa presenza di San Giuseppe, come viene raffigurata in ogni presepe, anche in quello che potete ammirare qui in Piazza San Pietro. L'esempio di Maria e di Giuseppe è per tutti noi un invito ad accogliere con totale apertura di animo Gesù, che per amore si è fatto nostro fratello. Egli viene a portare al mondo il dono della pace. Sulla terra pace agli uomini che egli ama, come annunziarono in coro gli angeli e i pastori. Il dono prezioso del Natale è la pace, e Cristo è la nostra vera pace, e Cristo bussa ai nostri cuori per donarci la pace. La pace dell'anima. Apriamo le porte a Cristo. Ci affidiamo all'intercessione della nostra madre di San Giuseppe per vivere un Natale veramente cristiano, liberi da ogni mondanità, pronti ad accogliere il Salvatore, il Dio per noi. Avete ascoltato La notte di Natale, il buon augurio del presepe, meditazioni tratte dal volume omonimo a cura di Paola Carelli, edizioni Terra Santa. Allestimento di Mara Miceli, con la viva voce del Santo Padre.